3, aspetta, mo action, mo actor mood pro. 3, 2, 1. No, ah, no, sia, non bisogna fare slash shop. Slash shop c'è dell'altra roba, ma non c'è. C'è tutto praticamente tranne la legna. Cioè c'è tutta la pietra di Minecraft praticamente. I mattoni, la tutta la. No, no, ok. Tu dove sei in tutto ciò? Boh, com'è che ti chiami, Gio? Sto prendendo la legna. Cioè, ne ho 3 stack adesso. Sai quanto mi serve per passare di rank? Quanto? 150.000. Stiamo facendo il pavimento. Ancora piccolo qua. Ma hai preso. Ma prima non c'avevi sta armatura. Ce l'avevo nell'inventario. Te la sei messa addosso perché temevi che la rubavamo? Sì, dai. Paurosa, ma vabbè, fai bene. Perché noi siamo, non facciamo niente, no? Però magari c'è quello che te le rubano, queste cose così. È contro il comandamento rubare. Dell'armatura in. Posso librarmi la cesta dandovi delle armature in diamante? No, va bene. Beh, intanto mettetevele, cioè mi devo liberare le ceste. Allora. Oh, fai la chiave che voglio vederti scintillare come una stellina molto carina. No, queste qua sono false. Ma tu sei credente, Spirit? Diciamo di sì, dai. Allora Bosnaccio può fare la messa tranquilli. Scusa, se volete costruire delle chiese e robe del genere, fatevi un server vanilla. Perché almeno qua facciamo le benedizioni, no? Non le facciamo per far diventare la gente credente. Ah. Va bene. No, comunque, cioè, a me mi è capitato più volte una persona che veniva nel mio lotto e mi diceva come voi, tipo. Però non è mai arrivata al punto di dirmi che voleva costruire una chiesa nel mio lotto. Oh, mi aiuti nelle catacombe? Macio? Sì, sì. Comunque no. Ah, ma qua c'è il limite del coso. Oh, giusto, giusto, se facciamo un blocco più in là non potevamo fare le catacombe. It's the dream. Dopo. E io metto un po' di blocchi ancora per fare un po' quell'atmosfera che volete voi. No. Poi per ritornare su come volete fare? Le scale qua. Prendine tanto. Riesci a prendere il coso, il beacon? No. Costa troppo? Sai, ci stava tipo mettere il faro qua. Sembrava tipo la luce divina, no? Cioè sì, posso anche prenderlo, però cioè dovrei spendere tutto quello che ho in... Ma ti serve anche te il beacon? Il beacon e poi servirebbero i blocchi d'oro. Cioè... Slash shop costa 40.000. Ma è la luce divina. No, fidati che nel... Oh, ma cosa c'era nella chest là sopra? Picconi, vari picconi. Di che tipo? Di che tipo? Nel senso, picconi diamante, efficienza 3, efficienza 4. Boss Nash è sotto casa mia? No, sarà un bug. No, c'è sotto casa mia. Se fermo la testa ferma. Non ti shiftare. Cos'è? Questo dove scende? Oh, ma hai preso tutto il perimetro delle catacombe così grande, voglio farlo, Boss Nash. Questo dove scende? Oh! Ma Bono, cosa sta succedendo, scusa? Dai, basta! No, dai, basta! Oh, ho visto la cassa aprirsi, va a vedere se c'è ancora la roba? No, no, quella no. C'era tutto? Dai, dammi la roba. Dai, dammi! La vuoi la roba? La vuoi la roba? Sì. Paga. cosa devo pagare? Secondo te? Soldi? No. Cosa allora? Soldi. E quanto volete, scusa? Un bel po', è un... cose che valgono tanto. Dai, ma perché dovete fare ste robe? Cosa stiamo facendo, scusa? State griffando tutto? Abbiamo costruito la chiesetta, non ti piace? Vai, fatto. Vuoi che ti ridiamo la cosa? Ci devi dare tutta la roba che hai nell'inventario. Ah, io nell'inventario c'ho... sta roba. No. Andiamo al Warp VP e ti uccidiamo. E poi ti ridiamo tutti i picconi e tutte le cose. Siamo onestissimi, visto che mi avete distrutto tutto. Ma nei 10 comandamenti non c'è scritto che non si può distruggere. Allora, mia cara divinità, io prometto solennemente di essere per sempre solenne alla religione del cromosomo. Ti devo benedire. Deve avvenire il rito. Ti devo benedire. Scendi. Il nome del padre, del figlio, dello Spirito Santo e del cromosomo. Oh, torna a casa tua prima che venga qualcuno a killarci. Sono nel PvP. Ok. Mio Dio. Sì, ma potevate griffare un po' di meno? Perché abbiamo griffato tanto? Ma non so, è giusto un oceano un po' ubriaco, proprio. Sì, e ci tengo a sto server. E allora paga. Ditemi la cifra che volete. Quanti soldi hai? 58.000. 58.000 vanno bene. A chi devo dare questi 58.000? A me, che sono il prete della chiesa, che poi ce li dividiamo con i pastori.